Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Capitolo 38. Consigli per gli sposati. Seconda parte. L'amore e la fedeltà unite insieme generano sempre libertà e confidenza. Ecco perché i santi e le sante nel matrimonio hanno usato di molte reciproche carezze, carezze piene di amore, tenere e sincere. Isacco e Rebecca, la coppia più casta dell'antichità, furono visti dalla finestra mentre si accarezzavano in tale maniera che, benché non ci fosse nulla di disonesto, Abimeleche concluse che non potevano essere che marito e moglie. Il grande San Luigi Re, rigorosissimo con se stesso, era tenerissimo con la moglie, tanto da meritare quasi di essere richiamato per le carezze eccessive. Penso che piuttosto avrebbe meritato una lode per il modo con il quale sapeva dimenticare il suo spirito militare, coraggioso, per fare posto a quelle piccole attenzioni che hanno il pregio di conservare l'amore coniugale. Infatti, benché quelle piccole dimostrazioni di semplice e schietta amicizia non leghino i nostri cuori, servono tuttavia ad avvicinarli e sono un piacevole complemento della reciproca conservazione. Santa Monica, quando era incinta del grande Sant'Agostino, lo consacrò con rinnovate offerte alla religione cristiana, al servizio della gloria di Dio, come ci riferisce egli stesso, confessandoci che aveva già assaporato il sale di Dio nel seno di sua madre. È un grande esempio per le donne cristiane offrire alla maestà divina il frutto del loro seno, anche prima che veda la luce, perché Dio, che accetta le offerte di un cuore umile e pieno di buona volontà, abitualmente asseconda gli affetti delle madri in tali condizioni. Ne sono testimoni Samuele, San Tommaso d'Aquino, Sant'Andrea da Fiesole e molti altri. La madre di San Bernardo, degna madre di un così grande figlio, prendeva in braccio i figli appena nati e li offriva a Gesù Cristo. E da quel momento voleva loro così bene come a cosa consacrata a Dio, e che da lui le era stata affidata, cosa che le riuscì così perfettamente che tutti e sette divennero grandi santi. Ma una volta venuti al mondo, quando cominciano ad avere l'uso della ragione, i papà e le mamme devono avere grande cura di imprimere nel cuore dei figli il timore di Dio. La buona regina Bianca compì particolarmente bene questo dovere nei confronti del re San Luigi, suo figlio, dicendo spesso queste parole: «Caro figlio, preferirei vederti morto sotto i miei occhi che vederti commettere un solo peccato mortale». La qualcosa rimase talmente impressa nel cuore di quel santo figlio che, come raccontava egli stesso, non ci fu mai giorno della sua vita nel quale non se ne ricordasse e si impegnasse con tutte le sue forze a restare fedele a quella raccomandazione. Nel nostro modo di parlare, le stirpi e le generazioni sono chiamate casa. Gli ebrei chiamano anche la generazione dei figli costruzione della casa, perché è in questo senso che si dice che Dio edificò delle case per mezzo delle levatrici d'Egitto. Questo per dimostrare che impiegare molti beni mondani non equivale a costruire una buona casa, ma allevare i figli nel timore di Dio e nella virtù, quello sì, è costruire una casa solida. In questo campo non ci si deve risparmiare nessun genere di fatica e di lavoro, perché i figli sono la corona del padre e della madre. Santa Monica contrastò con tanto amore e costanza le cattive inclinazioni di Sant'Agostino che, dopo averlo seguito per terra e per mare, si può dire che lo rese felicemente suo figlio con la conversione, più di quanto non lo fosse stato per la generazione del corpo. San Paolo lascia alle donne la cura e la responsabilità della casa. Molti sono di questa opinione e sostengono che la devozione della donna porta più frutto alla famiglia di quella del marito. Il motivo è che i mariti conducono una vita molto più fuori dalle pareti domestiche, per cui non possono avere tanta influenza nell'indirizzare i figli alla virtù. È questa una considerazione che fa dire a Salomone nei Proverbi che tutta la felicità di una casa dipende dalla cura e dall'attività di quella donna forte che egli ci descrive. Nella Genesi si dice che Isacco, vedendo che sua moglie Rebecca era sterile, pregò il Signore per lei, o, come detto nel testo ebraico, pregò il Signore di fronte a lei, perché pregavano uno da un lato e uno dall'altro del luogo di preghiera. E la preghiera del marito, fatta in questo modo, fu esaudita. L'unione che si realizza tra marito e moglie nella santa devozione è la più fruttuosa che si possa dare. Per questo devono a gara incoraggiarsi reciprocamente ad acquisirla. Ci sono dei frutti, come la mela cotogna, che per la loro asprezza sono buoni solo in marmellata. Altri frutti poi sono talmente teneri e delicati che non possono essere conservati se non canditi, come le ciliegie e le albicocche. Similmente, le mogli devono augurarsi che i loro mariti siano canditi con lo zucchero della devozione, perché l'uomo senza devozione è un animale spietato, aspro e rude. I mariti devono augurarsi che le loro donne siano devote, perché senza devozione la donna è molto fragile, predisposta a lasciare la virtù o a permettere che venga offuscata. San Paolo ha detto che l'uomo infedele è santificato dalla donna fedele, e la donna infedele è santificata dall'uomo fedele, perché nella stretta alleanza del matrimonio facilmente l'uno può attrarre l'altro alla virtù e viceversa. È una vera benedizione quando l'uomo e la donna fedele si santificano reciprocamente in un autentico timore del Signore. L'aiuto reciproco deve essere così grande che mai avvenga che entrambi siano adirati contemporaneamente e improvvisamente, perché tra loro non si devono vedere dissensi e litigi. Le mosche da miele non possono fermarsi dove c'è eco, rimbombo o clamore di voci. Lo stesso è dello Spirito Santo, che non entra in una casa dove ci sono dispute, contese, urla che si accavallano, litigi. San Gregorio Nazianzeno dice che già al suo tempo gli sposi festeggiavano l'anniversario del matrimonio. Mi piacerebbe che si introducesse questa abitudine, purché non fosse la copertura per divertimenti mondani e sensuali, ma che i mariti e le mogli, confessati e comunicati in quel giorno, raccomandassero a Dio, con un fervore più intenso che l'abitudine, il progresso del loro matrimonio, che rinnovassero i buoni propositi di santificarlo sempre più con un'amicizia ed una fedeltà reciproca. Sarebbe il modo di riprendere fiato in nostro Signore per sopportare sempre meglio il peso della loro vocazione. Thank you. Capitolo 34. L'onestà del letto matrimoniale. Il letto matrimoniale deve essere immacolato, dice l'Apostolo, ossia non contaminato da impudicizie e altre innominabili brutture. Il matrimonio è stato istituito nel paradiso terrestre, dove ancora non c'era stata alcuna sregolatezza sensuale né altra disonestà. C'è una certa analogia tra i piaceri legati al sesso e quelli legati al cibo. Sia gli uni che gli altri riguardano la carne. L'unica differenza è che i primi, per la loro brutale violenza, vengono chiamati semplicemente carnali. Per cui parlerò degli uni, intendendo con ciò illustrare anche gli altri, soprattutto riguardo ad alcuni dettagli scabrosi che non mi sembra opportuno affrontare direttamente. Primo. Il mangiare ha per fine la conservazione della vita. Ora, mangiare semplicemente per nutrire e conservare la persona è una cosa buona, santa, comandata. La stessa cosa va detta per l'uso del matrimonio. Ciò che esige la generazione dei figli e la moltiplicazione delle persone è una cosa buona e molto santa, perché ne è il fine principale. Secondo. Mangiare non per conservare la vita, ma per il piacere di continuare ad intrattenerci con gli altri e scambiare con essi cortesie, è una cosa molto giusta e onesta. Allo stesso modo, la reciproca e legittima soddisfazione delle parti nel santo matrimonio è chiamato da San Paolo dovere. Ma è un dovere così grande che non permette che nessuna delle due parti possa esimersene senza il libero e volontario consenso dell'altra, nemmeno per consacrarsi agli esercizi di devozione. Il che mi ha fatto dire sull'argomento la frase che ho inserito nel capitolo sulla Santa Comunione. Quindi, ancora meno, ci si deve dispensare con scuse capricciose di pretese virtù immaginarie, o peggio ancora perché si è adirati o si prova un sentimento di disprezzo. Terzo, coloro che mangiano per il dovere di stare in compagnia devono farlo disinvoltamente, non per forza. Per di più, devono anche dare l'impressione di avere appetito. Similmente, il dovere coniugale deve essere reso sempre fedelmente, con franchezza e nella speranza di generare figli, anche se si dovesse realizzare qualche condizione che lo escluda. Quarto, mangiare non per i motivi sui indicati, ma solo per soddisfare l'appetito, si può anche accettare, ma non lodare. Il semplice piacere dell'appetito sensuale non può essere motivo sufficiente per rendere lodevole un'azione. È già molto che la renda accettabile. Quinto, mangiare non per appetito, ma per ingordigia, è cosa più o meno riprovevole. Dipende dalla misura degli eccessi. Sesto, l'eccesso nel mangiare non si valuta solo dalla quantità esagerata che si ingurgita, ma anche dal modo, dalla maniera di mangiare. Sembra strano, Filotea, eppure il miele così appropriato e salutare per le api, qualche volta fa loro male, fino a renderle malate. Quando in primavera ne mangiano troppo, l'eccesso dà loro la dissenteria che qualche volta le conduce fino alla morte. In verità, il rapporto matrimoniale, che di natura sua è così santo, giusto e raccomandabile, e tanto utile alla società, in certi casi può diventare pericoloso per gli interessati. Sì, perché qualche volta rende le loro anime molto malate di peccato veniale. Questo con i semplici eccessi. Ma qualche altra volta le fa addirittura morire con il peccato mortale. Come quando viola e perverte l'ordine naturale stabilito per la generazione dei figli. Nel qual caso, in proporzione alla gravità della violazione di quell'ordine, i peccati, sempre mortali, possono risultare più o meno esecrabili. Siccome la procreazione dei figli è il primo e principale fine del matrimonio, non ci si può mai scostare dall'ordine da esso richiesto, anche se per causa di qualche altra circostanza non dovesse essere conseguito, esempi la sterilità o la gravidanza in corso, nei quali casi evidentemente non c'è procreazione. In tali circostanze il commercio corporale non cessa di essere giusto e santo, sempre che siano osservate le regole per la generazione, perché nessuna circostanza potrà mai togliere valore alla legge imposta dal fine principale del matrimonio. L'azione infame ed esecrabile commessa da Onan nel matrimonio era detestabile agli occhi di Dio, come dice il testo sacro nel capitolo 38 della Genesi. E benché qualche eretico del nostro tempo, più biasimevole dei cinici, dei quali parla San Gerolamo nel commento alla lettera agli Efesini, abbia voluto sostenere che era l'intenzione perversa che Dio detestava, la Scrittura non lascia dubbi e dice chiaramente che era la cosa in sé che davanti a Dio era detestabile e abominevole. Settimo. È indice sicuro di uno spirito di accattone, villano, abietto, senza onore, pensare ai cibi, alla scorpacciata, prima del pasto. Peggio ancora quando dopo ci si sofferma sul piacere provato nel rimpinzarsi, parlandone e pensandoci, immergendo lo spirito nel ricordo della voluttà provata trangugiando vivande. Proprio come fanno alcuni che prima del pranzo hanno il loro spirito sullo spiedo e dopo il pranzo nel piatto. Sono veri lavandini da cucina, sono quelli di cui parla San Paolo quando dice che hanno fatto del ventre il loro Dio. La gente rispettabile pensa alla tavola quando si siede e dopo il pasto si lava le mani e la bocca per non sentire più né l'odore né il sapore di quello che ha mangiato. L'elefante è un gran bestione, ma è il più degno degli animali, a buon senso. Voglio raccontarvi un aspetto della sua onestà. Non cambia mai femmina e ama teneramente quella che ha scelto. Si circonda di tanto segreto che non è mai stato possibile sorprenderlo in quell'atto. Si fa vedere apertamente il sesto giorno quando si reca al fiume per un bagno totale, perché non vuole rientrare nel branco senza essersi totalmente purificato. Sembra quasi che il comportamento così bello e onesto di questo animale inviti gli sposi a non rimanere impantanati con il cuore nelle sensualità e nei piaceri provati secondo la loro condizione. Ma una volta passati, bisogna lavarne il cuore e gli affetti, purificarsi per poter in seguito, in libertà di spirito, affrontare le azioni più pulite ed elevate del proprio stato. In questo consiglio è racchiusa la pratica della meravigliosa dottrina che San Paolo consegna ai Corinzi. Dice: «Il tempo è breve. Coloro che hanno moglie si comportino come se non l'avessero, perché secondo San Gregorio avere una donna come se non si avesse vuol dire prendere insieme a lei i piaceri corporali in modo tale da non essere distolti dalle aspirazioni dello spirito». E quello che si dice del marito si applica logicamente anche alla moglie. Continua l'Apostolo: coloro che usano del mondo siano come se non ne usassero. Si servano pure tutti del mondo, secondo la propria vocazione, ma senza impegnare l'affetto, in modo da essere sempre liberi e pronti a servire Dio, senza che il mondo ci sia di ostacolo. Dice Sant'Agostino: «È il grande male dell'uomo pretendere di godere di quelle cose di cui deve solo servirsi e volersi servire di quelle per le quali deve soltanto provare gioia». Noi dobbiamo godere delle cose spirituali e di quelle corporali servircene. Penso di avere detto tutto quello che volevo dire e di essere riuscito a far capire senza dirlo quello che non volevo dire. Consigli alle vedove. San Paolo, scrivendo a Timoteo, dice a tutti i vescovi: onora le vedove che sono veramente vedove. Ora, per essere veramente vedove, sono richieste queste tre condizioni. Primo, la vedova deve essere non solo vedova di corpo, ma anche di cuore. Ossia, deve avere deciso, con una ferma risoluzione, di mantenersi nello stato di una casta vedovanza. Coloro che sono vedove, in attesa di risposarsi, sono separate dagli uomini solo quanto al piacere del corpo, ma sono già unite a loro con la volontà del cuore. Se la vera vedova, per sentirsi più stabile nello stato di vedovanza, vuole offrire in voto a Dio il suo corpo e la sua castità, aggiungerà un bell'ornamento alla vedovanza e metterà al sicuro la sua decisione. Infatti, una volta fatto il voto, vedendo che non è più in suo potere lasciare la castità senza lasciare il paradiso, sarà custode così gelosa del suo proposito che non permetterà nemmeno a semplici pensieri di matrimonio di fermarsi nel suo spirito anche per un attimo. Sant'Agostino consiglia con particolare insistenza questo voto alla vedova cristiana. Il voto rende le opere che ne sono l'oggetto più gradite a Dio, dà coraggio nell'affrontarle e non offre a Dio solo le opere che sono il frutto della nostra buona volontà, ma gli fa dono anche della volontà stessa, che è, come dire, l'albero che produce le opere buone. Con la semplice castità noi facciamo dono del nostro corpo a Dio, riservandoci la libertà di concedergli in altra occasione anche i piaceri dei sensi. Col voto di castità, invece, gli facciamo un dono assoluto, irrevocabile, senza riservarci la facoltà di cambiare. In tal modo ci rendiamo felicemente schiavi di colui il cui servizio è molto meglio di tutti i regni. Secondo. Inoltre, bisogna che la rinuncia alle seconde nozze si faccia senza secondi fini, con semplicità, per rivolgere con maggiore purezza tutti i propri affetti a Dio e unire il proprio cuore con tutte le sue parti a quello della Divina Maestà. Anche il desiderio di lasciare ricchezze ai figli o qualche altro progetto umano può offrire alla vedova motivo di rimanere nella vedovanza. E probabilmente ne riceverà anche lodi, ma non davanti a Dio, giacché davanti a Dio niente può ricevere lode autentica se non è fatto per Lui. Terzo, oltre a ciò, la vedova, per essere veramente vedova, deve vivere staccata dalle gioie del mondo, privarsene volontariamente. San Paolo dice che la vedova che vive nelle delizie è già morta raviva. Pretendere di essere vedova e poi compiacersi di essere corteggiata, coperta di gentilezze, esaltata, pretendere di essere sempre presente a balli, danze, festini, agghindarsi, far di tutto per essere piacente, vuol dire essere vedova corporalmente viva, ma morta nell'anima. Il tempo di potare è venuto. Nella nostra terra si è udito il tubare della tortora, dice il cantico. Il taglio delle cose inutili di questo mondo è richiesto a chiunque voglia vivere devotamente, ma è assolutamente indispensabile alla vera vedova che, come una casta tortora, ha da poco smesso di piangere, di gemere e lamentarsi per la morte del marito. Quando Noemi tornò da Moab a Betlemme, le donne della città che l'avevano conosciuta giovane sposa dicevano tra loro: «Non è costei Noemi?» Ma essa rispondeva: «Vi prego, non chiamatemi Noemi, perché Noemi vuol dire graziosa e bella. Chiamatemi Mara, perché il Signore ha riempito il mio cuore di amarezza». E parlava così perché le era morto il marito. Allo stesso modo, la vedova devota non ci tiene ad essere chiamata bella, graziosa. Si accontenta di essere ciò che Dio vuole che ella sia, umile e abietta ai suoi occhi. La vedova che ha figli ancora bisognosi di lei per la formazione e la guida, soprattutto per quello che riguarda l'anima e il loro avvenire, non può e non deve abbandonarli per nessuna ragione. L'Apostolo Paolo dice chiaramente che è obbligata ad averne cura, per fare quello che hanno fatto con lei mamma e papà, e anche perché, se nessuno ha cura dei suoi, e principalmente di quelli della sua famiglia, sarebbe da considerare peggio di un infedele. Ma se i figli sono ormai autosufficienti, la vedova deve raccogliere tutti i suoi affetti e pensieri per impegnarli più puramente al suo avanzamento nell'amore di Dio. Se non è costretta in coscienza da cause di forza maggiore ad immischiarsi nelle faccende materiali come i processi, il mio consiglio è che se ne stia completamente fuori. E nella condotta degli affari segua il metodo più pacifico e tranquillo che gli sarà possibile, anche se non dovesse risultare il più fruttuoso. L'orazione deve costituire un costante esercizio per la vedova. Siccome ella deve ormai nutrire amore solo per il Dio, trovo naturale che le sue parole siano quasi esclusivamente rivolte a Dio. Il ferro, in vicinanza di un diamante, non viene attratto dalla calamita, ma se allontani il diamante, immediatamente il ferro scatta verso la calamita. Mi sembra che l'esempio si possa applicare alla vedova. Mentre il marito era in vita, il suo cuore non poteva lanciarsi completamente in Dio, ma appena il marito è morto, ella è libera di seguire con prontezza la scia dei profumi celesti, dicendo come la sposa: «Signore, ora che sono tutta mia, prendimi come tutta tua, trascinami con te e corriamo al profumo dei tuoi unguenti». L'esercizio delle virtù proprie della santa vedova sono il totale riservo, la rinuncia agli onori, al rango, alle riunioni, ai titoli, a simili vanità. Il servizio dei poveri e degli ammalati, la consolazione degli afflitti, l'iniziazione delle ragazze alla vita devota, e quella di rendersi un perfetto esempio di ogni virtù per le giovani donne. La pulizia e la semplicità sono i due abbellimenti per i loro abiti. L'umiltà e la carità, i due ornamenti per le loro azioni. L'onestà e il tratto gentile, l'ornamento della loro conversazione. Il riserbo e la pudicizia, l'ornamento dei loro occhi. E Gesù Cristo crocifisso, l'unico amore del loro cuore. Per concludere, nella Chiesa la vera vedova è una violetta di marzo, che spande intorno a sé un profumo incomparabile di devozione, e si tiene sempre nascosta sotto le larghe foglie della sua umiltà. Con i colori meno sgargianti che indossa, testimonia la mortificazione. Cresce nei luoghi freschi, non coltivati. Non vuole essere agitata dalle conversazioni della gente di mondo, per meglio proteggere la freschezza del cuore, dal desiderio dei beni, degli onori. E, perché no, dal calore di un amore che potrebbe invanghirla. Una parola alle vergini. Voi che siete vergini, se aspirate al matrimonio, conservate gelosamente il primo amore per il primo marito. Penso che sia un grave inganno offrire al posto di un cuore integro e sincero un cuore già usato, adulterato e consumato nell'amore. Ma se la vostra felicità vi chiama alle caste e virginali nozze spirituali e volete per sempre rimanere vergini, conservate l'amore nel modo più delicato possibile, per lo sposo divino, che essendo la purezza incarnata, nulla gradisce quanto questa virtù. A lui dobbiamo tutte le primizie, ma principalmente quelle dell'amore. Le lettere di San Gerolamo vi offrono tutti i consigli del caso. E già che la vostra condizione vi obbliga all'obbedienza, scegliete una guida, per poter più santamente, sotto la sua condotta, consacrare il vostro cuore e il vostro corpo alla sua divina maestà. Filotea, introduzione alla vita devota, di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria.